Chi c'è? Parla Vittorio. Passo 1, 2, 3. Io ce l'ho, mi ce l'ho bella liscia, bella liscia. Le sto usando col gommino e sulla parte dietro. Sì, io stavo chiamando da poco fa, tutte e due, te lo stesso, mi hai visualizzato su pro zap e non mi ha risposto. Dai, 10 minuti, un quarto d'ora, arrivo subito. Guarda che c'è Gio Maria. Comunque adesso ho sentito tutta la scarica. Se ti sposti poco a poco riesco a capirti bene. Alessi, ha sentito tu che non sono parlando con te adesso, aspettati. A me Gio Maria stavi dicendo? Ho detto che sei uscito a tratti, ripeti. Ho detto che io mi sto assentando, arrivo subito. Vai. Che c'è il dito facile, è entrato, eh. Ma stai fischiando Gio Maria un bel, Io sì, è dito facile. Meno bene, rispondi, ho messo il dito io pure. Ehi, e cos'è? Cosa mi stava chiamando Paolo? A voce? Va bene, mi senti, sì? Sì, che sono bene. Stavo dietro, cameretta. Vuol dire che ci arrivo ugualmente con lo portatile, dai. Sta arrivando bene. Aspetta, mi c'è un'imbavoletta. Riprendo il suo. Nonno! Chi è? Non è tu! Non ho capito! Non mi senti! Ah, mi senti! A tratti ti sento! E adesso! Un passaggio più lungo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Adesso io ti sento con le orecchie! Aspetta, mi faccio l'altro strusso! Ebbene, accessi! Cosa mi vuoi che vada? Non posso andare sul posto! Cosa? Dove vuoi che vada? Sono qua seduto! Aspetta, mi sto misurando la glicemia! Misurati la glicemia! Ehi, che mi ha fatto anche l'ispulso, adesso mi misuro la glicemia! 158, Gian Mario! Scoppiato hai! Ebbene, Gian Mario! Luca, ci sei! Gian Mario! Eia! Che mi ha fatto anche lo spruzzo e mi stavo facendo gli sciacqui adesso. La glicemia ce l'ho 153. Bravo! Bravo, bravo! Ma chiederà così sempre! E tu quanto ce l'hai? No, non me l'ho misurata io, adesso la misuro più tardi, prima delle 8. Io me l'ho già misurata adesso, dato che mi stavo facendo gli spruzzi. Tutte le volte mi faccio gli spruzzi, me ne vado in scilluci. Io prima del padre ce l'avevo un be alta, un be. Sì, perché non avevo preso la pastiglia la notte. Ieri notte non avevo preso la pastiglia. Così che mi è salita un'altra oggi, però stasera senz'altro sarà normale, adesso mi da un po' prima delle 8, va. No, io stamattina ce l'avevo 113, poi prima di pranzo ce l'avevo 135 e adesso ce l'ho 153. E dunque già andavi. Vabbè, oggi mi ho pranzato pasta e lenticchie, ho pranzato. E poi, è un uovo col sugo così, un uovetto. La mia ballerina, un po' alta, un po' bassa. La settimana scorsa era 125, 115, catà. Addio e basta, capito? Ma per dire, la sua manzana era bisata di Lurito, quando mi sono alzato. Ce l'avevo 176, alla bisata di Lurito. Purtroppo è così, La mia ballerina è... Davvero, la mia ballerina, visto che è un po' alta, un po' bassa, ma io sto mangiando tutto, io sto mangiando tutto, per cui forse è per quello che molte volte ce l'ho alta per quello, così che mi sono sceso in campagna e mi ha mangiato 4 mandaranzi, da voi la sono cazzata, me l'ha misurata, e me la via a 180. No, come frutta mi ho mangiato la metà di una pera, ed era dolce, però noi mi si assata. Poi mi ho mangiato anche 2 cioccolatini, 3 caramelle stasera, e invece non mi è salita di molto. Pane ne ha mangiato un pezzettino piccolo. Basta stare un po' attenti, si così, però purtroppo quando ho cose abbiati ti mangi sempre di più, che è salsa, cosa vuoi fare? Certo. Anche certe sere no, mi mangio pure la merendina alle ciliegie, ti puoi immaginare. Per dire, io sto mangiando tutto, ecco perché magari molte volte è alta, capito? Tutto io già non lo mangio. Per esempio, minestrone non ne mangio, posso mangiare pasta e fagioli e patate. Così sì, pasta e lenticchie come ultimo. Però il signore non ne mangia, il signore mi fa andare pure in bagno, pure qui su buio. No, no. Oh, no. Mi piace, ma non ne mangio, minestrone. Posso mangiare pasta, patate e qualche pisello e mezzo, così. Però no, non di più, No, io quando mangio, non è che sono proprio a regolarmi, per dire, cazzo, quando mi brodo un piatto di brodo me lo mangio, un pezzo di carne me lo mangio, l'insalata se il castro non me la posso, e poi magari mangio la frutta pure, capito? Però quando mi voglio mangiare, mangio, non è che sto a tirare così, no. A tu ci hai mangiato un panino con un piatto di peperoni col sughetto, mi piace un bel a me, catta, e ci ho tirato con la sacchetta, ma te su altri piatti mi lo mangio, per l'altro un poco da mezzo di mi lo mangio, è chiaro che salta, no? No, io un panino, se mi mangio un panino non mangio altro, un panino è un bel, se me la fa salire un bel pane. Se mi mangio il panino non mi mangio altro. La che da passare prima dei vecchi, un mezz'ora mi ha fatto un bel panino, un bel imbottito, con tutto, rinfrescante. Ho messo anche in mezzo quegli asparagi coltivati che vendono, che sono grossi. Già sono buoni, ci ho messo anche quelli in mezzo. Mi ha fatto mezzo salsiccia, però mi ha mangiato una rosetta. Ci ho messo la fontina, prosciutto crudo e poi ci ho messo quegli asparagi un po', fanno assai asciutto un bel. E ha mangiato così. Buonasera. Ma è così. Io il panino lo mangio quando c'è la... perché me lo bagno nel sugo, capito? Certo che se mangio la pasta il pane non lo mangiano, chiaro no, perché non ci vuole quel pane, il pane nella pasta. Però se c'è brodo, certe volte mi mangio anche quel pane grassato nel brodo in mezzo alla minestrina, capito? Ti puoi immaginare? Anche io nel brodo il pane me lo metto, che se no uno che mi va da cucci. Se mi mangio il brodo solo così, invece io ci metto il pane e mi mangio la minestra con un pane e così me lo posso sviluppare bene, mi compris. Però non ne mangio altro, mi posso mangiare una dei polpetti così senza pane e è una frutta. Vabbè, ma se tu mangi il brodo, vabbè, a te magari il brodo ti fa di se effetto, però un pezzo di carne la mangi, e se mangi un pezzo di carne mangi pure l'insalata, qualche pezzo di pane, pure no. Sì, mi mangio la carne con un pezzettino di pane, e un pomodoro, oppure un pochettino di insalata verde, condita con un po' di olio d'oliva, e un pezzaretto di pane. La polpa del brodo, ma un pezzaretto, no un pezzo umano, un pezzo quante due dita là, tanto basta giallo, non è che ma un bel po' che mi piace, però io dico o mangio una cosa o mi mangio l'altra, molte volte o mi mangio la carne e il brodo non ne mangio con il pane, e mi mangio la carne con un pezzo di pane e l'insalata, capito? Però minestra con il pane non ne mangio, o uno o l'altro. Oh, sono tornato. Chi è? Tornato, sì. E intanto io mi ho misurato la glicemia, 153, mi ho fatto gli spruzzi, mi ha fatto i cillucci, e niente. Vai per Giammaggio. Vabbè, dai, io oggi influenza non ne ho avuto, dai. Tutto a posto, sembra... sono tornato normale, dai. Solo che mi ha lasciato il segno, c'ho questa tosse, sto facendo l'ariosol, sto prendendo lo sciroppo, Adesso domani mattina mi faccio un salto dal medico, vediamo un po'. Magari c'ho qualche bronchite, chi lo sa. Avanti Gio Mari. Ebbene, non c'è passata ancora lui. Ah, diciamo che la tosse già sta migliorando, però a colpi. È a colpi, Gio Mari. Ieri era, avanti ieri, fastidiosa proprio, perché mi sembrava che avessi qualcosa nella gola che mi toccava, buono, lo se mi facevo a tossire di continuo. Ma oggi dai, sì, qualche colpo lo do. Però non c'ho catarro, è quello, ma tu sei secca. Infatti, finché lo fai il giro suo, hai ragione. Oh, se di meno la tosse non la fa, vuol dire che sta andando bene là. Ma un altro paio di giorni e vedrai che sei a posto. Ok, vai, grazie. E domani vai dal medico e ti fai visitare. Ti fai controllare. E senti cosa ti dice, magari ti dà qualche antibiotico. Vabbè, comunque mi è rimasto questa cosa qua, anche mal di testa, sembra che sia ok. E in questi due giorni mal di testa forte, prendevo la bustina con la febbre, nudo, ci la febbre mi sudavo. Va bene, andava bene, poi stavo meglio, mi cambiavo, però mal di testa rimaneva tutta la notte e non potevo prendere un'altra medicina. Allora devo aspettare all'indomani per fare colazione. Prendevo la bustina comunque sia, sempre per la febbre o la tachipirina che sia, però mal di testa c'era, rimanendo. Ma che vuoi? Però sono uscito. Grazie. Già sei uscito. Lo stavo guardando qua, c'era un coso. Quante epe ci sono in mezzo a quel gioco che c'era? Ne ho contate 6. Vabbè, comunque la sto meglio, dai, Gio Maria, avanti. Ma sai, c'è Bacchisio, Bacchisio, avanti, buonasera. Buonasera Luca, buonasera Graziano, buonasera Gio Maria. Sono un passaggio così, un saluto e poi andare via. E vedo come la va. Ah, diciamo che sono guarito, c'ho un po' di tosse, a colpi, dai. Sembra che sia ok. Tutto è passato, dolore alle ossa, mal di testa, raffreddore, mal di gola, tutto. È la tosse che mi è rimasta. Se passa quella sono a posto. Se no, aspettiamo. Bisogna stare un po' a caldo, riparati. Al caldo, riparati da questo freddo che c'è questi giorni. È un bestiale oggi. Oh, io sono tutto a dolore, mi fa male le gambe, il bacino. Il petto, se a elencare i dolori non ce n'è uno petto buono, da. Tutto da ricambiare. Avanti, grazie. Ciao Bacchisio, lo tempo è l'ompio, e beh, pure freddo, bisogna tapparsi bene se esci, caro Luca, vero Bacchi? Rilancia Gio Maria, vai Gio Maria che c'è Bacchisio. Salutiamo il signor Bacchisio, ben sentito, buonasera e cordialità. Allora avanti signor Bacchisio, chissà cosa, quando entra a voi non si esce più, no, col tempo finché lo fa il giro suo già se ne va, o no Bacchisio? Buonasera, e cosa vuol fare? Siamo il tempo giusto, il tempo giusto è... E dunque ce la becchiamo e aspettiamo che passi. Invece di arrivare in fretta, poi arrivi un pacco di denaro, è stato più contento. Capito lui come la faccenda. Così che va tra un paio di giorni, vedrà che c'è il sesso, così che è tranquillo. Io lo pigliare corrente perché c'è aria fredda, c'è aria fredda per cui... bisogna stare molto attenti ai colpi d'aria. Magari te ti ha beccato sempre a caldo, esci fuori e ti becca. Sicuramente. Vabbè, comunque, da tutto sommato, già sto meglio. Da. Questa febbre poi è un casino, perché magari sto qua, siccome devo salire a casa per fare appunto la mamma, devo uscire a... questo caldo da qua... Già quando esci dal portone ti fulmina, perché ti fulmina. È così, dai, comunque già sto meglio, dai, meglio così. aspettiamo questo mal di gola, cioè questa tosse che se ne va e poi sono a posto. Ehi, ehi, va bene, là, già vi ho sentiti, per cui state bene e ci sentiamo domani, dai. Chiudo e c'ho da fare qualche cosetta, per cui ne approfitto. Ciao Lu, auguro ancora, ciao Marchisio, saluto Riccardo e saluto anche a Graziano. Torno, se sentito Marchi, boh, sarai da parato, comunque salutamelo se rientra. Ciao, ciao Gio Maria. Sentato Gio Maria, se rientra te lo saluto. Io ieri non ho acceso, oggi all'ultimo momento hai stato accendo un po'. Non ho voglia, ragazzo, anche, non c'ho voglia neanche di parlare. Stanco. Anda bene, avanti, grazie. Ehi, ciao Gio Maria, a domani se coincide ce la risentiamo. Ciao, ciao. Adesso, Marchisio, non è che sei incinto, Lano, sarà incinta, questa stanchezza improvvisa. Aspetta che la saluta Gio Maria, ciao Gio Maria, salutone, dai, anche in casa. Alla prossima, ci sentiamo. Grazie, ciao ciao. Buongiorno a tutti, fratelli e sorelle. Mi abbi tu, io mi abbi tu. Ciao. Come stai? Non lo so se mi sentono gli altri, sono quasi sotto casa tua qua, col portatilino. Ciao, buone cose, salutami. Ciao Vittù. Vittù, non sei tu, questo è Vittorio Grande, là. Chiamiamolo così. Ciao Vittù, ciao. Avanti, grazie. Ciao Vittorio Grande, ben sentito Vittorio Piccolo. Vai Vittorio Piccolo. Ah, vero. Il cavolo mi sto aspettando e non sta mai rispondendo. Oggi era una giornata critica, sempre da fare, sempre da fare. Aspetta che rilanciamo il signorino Avvero, avanti Avvero. Avvero, Avvero. Dai, può succedere qualcosa, poi tra il cercamento se sono curta può succedere. Aspetta che sono qua Vittorio Grande. Vittorio Grande, buonasera. Dimmi se ci sei ancora in ascolto, che ti devo dire una cosa. Buonasera Marchico. Seduto, seduto Vittorio Piccolo. Buonasera Marchico, come sta? Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Aspetta, sto chiamando a Vittorio. Ma attenzione, Ciccio Bello. Beh, non lo so, mi senti? Sì, io che ti sento. Ecco. Poco potente questo giocattolo. Quando vuoi, Marchi? Ci sei sempre in laboratorio? Sì? Sì, ci sono sempre, sempre. Graziano. Aspetta che sta parlando. Io non mi sento, ma salutami, ciao. Grazia. Dimmi. Ascolta, ma per la tachipirina 1000 bisogna farsi fare la ricetta dal medico, vero? No, le ho comprate ieri le tachipirine da 1000. Boh, Marina ha detto, dice che bisogna dirlo al medico. Ma diglielo. No, io so che per la 1000 ci vuole la ricetta del medico, per la 500 la prendo normalmente in farmacia. Cosa c'entra? Se te la darà 500 invece prenderne una ne prendi due pastiglie e sono 1000. Io le ho prese da 1000. Da 1000 sono Paoli. Da 500. E però ne prendi due fa 1000, no? Grazie a quello che gli ho detto io a Luca. Ma io sono quelle da 1000, perché devo prenderne due? Certo che esistono, però io so che ci vuole la ricetta del medico per quelle da 1000. E se tu vuoi quella da 1000 te ne prendi due da 500, poi chiedi al medico e te lo dici. Vabbè, dai, vabbè, lo chiedo al medico domani, vediamo un po'. Avanti, io, Marchisio, riprendi. Aspetta un attimo, Marchisio, ehi, così è Luca, perché qua, quando le compra da 500... Ne prendi due, se ne devi prendere una da 1000, ti ingordi due ed è 1000. E mica, è la matta si goza. Invece prenderne una da 1000, ne prendi due da 500. Sì, magari quella da 1000 è più carica delle due da 500, capito? Sì, ma tu adesso qua c'entro famiglie, mi dunque sei sempre vivi, ma chi, diglielo tu. Yeah, dunque è così come sta dicendo Graziano, ne prendi, se devi prendere la mille ne prendi due e arriva lo stesso valore, capito? Quella è più comoda perché ne ingoio solo una, ma ne ingoio due da 500 se sei allo stesso valore da 1000 e non ci vuole di ricetta, è per è farmaco da banco. Vediamo un po' che da Vittorio Grane, se, Vittu, se mi ingoio, se mi ingerisco un dio da 1000 cosa ne dici? Tu mi passa sta tosse? Si dipende dove te lo metti. No, orale. Prova. Prendi la 500, basta e avanza, cosa 1000. Che dici Vittu? Ah vabbè, dai, fallo così allora. Ma vabbè, io ho preso la 500. Però sta febbre, grazie a Dio, cioè mi è passata, però era tosta, praticamente la mattina non ne avevo, cioè come mi alzavo c'avevo la febbre, prendevo la medicina e mi si abbassava tranquillamente, sudavo, poi la notte, la sera, mi risaliva. Fa così, infatti te lo devi prendere dopo cena, quando ti metti a letto e tapparti bene soprattutto, devi sudare. Avanti, Vittorio Piccolino, mi senti? Sì, ti sento. Ma sempre là, sì. Eia. Ho capito. Noi siamo quasi, sta finendo questo programma, grazie, poi andiamo a cenare. Cosa mangi stanotte, grazie? Io già mangio leggero. Ah, no, stanotte. Cioè, non mi resta pasta e lenticchie. E tu? È buona, dai. Avanti, Bacchi. Io vi approfitto del micro per salutarvi e passare in cuore di causa merendero, è arrivata l'ora delle medicine. Bene, ciao Vittorio Grande, ci vediamo allora, ti porto quell'aggeggio, fammelo controllare. Ciao Graziano, ciao anche a Vittorio Piccolo e a Luca. Buona serata ancora, buon QSO, buon tutto, ma chi sia da quel santo ascolta finalino e poi passa in QRT. Riprende Vittorio Grande. Bacchi, dai, cosa stai facendo in questo momento? Sta salutando, ciao Bacchi, dai, salutoni, buon attimo e buon tutto, alle prossime. Avanti, grazie. Eia, ok, ciao Bacchiggio. Oh, alla prossima, domani se coincide ce la risentiamo. Buona cena e buon tutto. Ciao bella bella. Vai Vittorio che sta chiudendo, Vittorio Piccolo, Bacchiso sta chiudendo, saluta. Uè dai, saluto a tutti e ci risentiamo a domani, se tutto coincide bene naturalmente. Eia, va bene, adesso chiudo io, là, che mi devo fare l'insulina. Ciao ragazzi, grandi e piccoli, un bacio a tutti, fate da bravi, se no vi faccio la lezione, capito? Ciao a tutti, riprendi Vittorio Grande, a domani se coincide. Eia, se domani coincide ci risentiamo a domani, avanti Bacchisio. Ma ci fai la lezione? La lezione, la puntura. Ah, va buona, ciao grazie. Ciao Vittorio Piccolo, ciao Vittorio Montanaro, ciao, chiudo pure io, buonanotte e buona cena a tutti, ciao. Ciao, lui stammi bene. Statemi bene, buone cose, ciao. E bello un flipper, avete voi. Ciao. Ciao. Ah, ciao Flipper che sei in ascolto, me l'ero dimenticato. Dimenticato di dire, vabbè, dai. Ciao. Ma di Bacchisio non vedi più. Che passa di radio? Passa solo, tanto ne è. Oh mio, si sono stesso con la roba che tu mi hai dato. I tubi sono diversi dai miei, eh? I tubi sono diversi, ma già cerco di usarli lo stesso, dai, mancanza d'altro. c'hanno il tubicino a fianco, ma il mio no. Il mio è l'unico tubo normale e basta. Ma quel tubicino dove andava a collegare, Antonio? È semplice, perché il mio per esempio c'ha il tubo, per il tubo normale, il tubo tipo quello lì, no? Parte dall'apparecchio alla maschera e basta. So che quello lì ho visto c'ha il tubo normale come ce l'ho io, e a fianco c'ha un riduttore dove va collegato, c'è un tubicino più sottile a fianco, che andrà a collegare qualche altra cosa, non lo so. Forse l'apparecchio deve essere mio, ma la maschera già va bene lo stesso, va, diciamo. Prima so che io, il mio è diverso, il mio c'ha l'apparecchio, poi c'ha una vaschetta, quando io la notte prendo e la riempio di acqua, a certa, c'è una misura, no? E poi la mattina io quell'acqua va via tutta quanta, capito? È venuto il tecnico stasera, me l'ha controllata, l'ha trovata pulita, l'ha scansionata, insomma, ha tolto il coso, c'ho la scheda, io c'ho la scheda, ha fatto quello da fare, una maschera mi ha lasciato, solo una maschera, è un tubo, è un filtro. Bene, per il momento è solo questo, e vabbè, lasciamo questo, già mi odio di cambio intanto. Le posso utilizzare, la maschera assomiglia a quella che uso io, capito? È la gemella, è precisa, cambia la marca, ma è la gemella della mia, la maschera. I tubi no, boh, c'ho il tubo in più, vabbè, no, già ne ho i miei di ricambio, capito? Già ne ho parecchi di ricambio, non fa nulla, tutto qua. Non l'ho provato a fare il mio piccolino, no? Anche quello ci voleva, quando gira gira, per carità. Boh, infatti la malattia, la medicina del doppio, Antonio, boh, mancava solo quello lì. Perché, scusa, non ci avete la caldaia voi, oppure avete la caldaia normale, Antonio? Thank you. piccolino, è più rapido come carica, capito? È piccolino, però è più rapida, sta più veloce. Io per esempio, vabbè, su dove abito io sopra c'ho la caldaia e così via, però giù dove abitavo io, dove c'ho la stazione, dove tu sei sceso, c'ho la sala bagno, però c'ho piccolino, da 50 ce l'ho. È rapido a caricare, capito? È rapido. Invece con l'80 ora tarda a caricare. Invece più piccolino è più rapido, tutto qua. Io ho la caldaia e mi alimenta sia la cucina e poi tutto l'impianto della cosa, là. Tutto l'impianto della doccia e così via, la caldaia. È solo caldaia, è solo scalabagno, diciamo, là. C'ho una bomba da 15 kg e così via. C'ho sempre il cambio a fianco, qui c'ho doppio attacco e per il momento va benissimo. Invece giù c'ho lo scalabagno da 50, giù, dove c'ho la mia altra appartamento, capito? Dove c'ho la vasca e così via, su c'ho la luce, giù c'ho la vasca. Già va bene, là, già va abbastanza. Quel consumo è minimo, diciamo, perché il consumo è quando tu stai scendendo e inizia a scaldare, dopo 10 minuti c'è l'acqua calda, capito? Va bene Antonio, va troppo bene, la caldaia va benissimo, io grazie a Dio per il momento, l'unica cosa sono le batterie che si scaricano per l'accensione, ogni tanto dobbiamo prendere la batteria da una torcia, però il giorno mi rompo le scarpe, prendo un alimentatore piccolino, lo faccio a 1,5 e lo lascio attaccato e ciccia. Invece comprare le batterie, la cicloalimentatore e va bene lo stesso. No, è una torcia o... Oh... Antone, è una torcia da 1,5 e basta. Adesso vediamo dove comprare, cosa fare che c'è tu per caricare il stilo e la torcia, che non è posto il stilo che uso parecchio, sia per i giochi e così via, capito? Compro le batterie ricaricabili che faccio prima. Ci vuole anche il caricatore, no? Dopo, prima il caricatore insieme alle batterie. Sì, io sono con le batterie che ce l'hai. sapere quanto ti tiene, se ti viene esame per quello, non fai altro che togli l'uno, mettici l'altro, tanto ti dura dei mesi di questo tipo di batteria, poi una volta che fai 10-15 ricariche, vedi proprio se è cambiato. Vabbè, perché se ne scende, piano piano se ne scende, è giusto. E adesso vediamo, là. Il tuo vai preso giù da a CBC l'hai preso? Sì, l'avevo comprato la CBC, io due dico di vino, sono quello a 4 e quello a 6, di caricatore, che fa minifilo e filo, capito? Infatti del portatile, capito? E l'avevo regalato a Nico. Ho regalato un baracchino 40 canali di portatile, montava 6 batterie e le ricaricavo quello. Infatti avevo regalato anche un caricatore, avevo regalato. E anche se dice come le carico, e poi mi dicevo questo qui, che lo carico con questo. Io adesso un cammino, mi avvicino al CBC e vediamo là. Se c'era uno mi serve, uno la torcia e l'estilo là. Tiro e... E mentre stilo sono quelli che si usano in casa più o meno là, sia per dei comandi e così via. Tutto qua. Bene, Antonio, io ti lascio, mi stanno chiamando. Saluto in casa, ci sentiamo domani se non ci sono, controllo cosa fare, che cosa c'è dentro il tempo. E così via. Ciao Antonio, ciao. Sì, domani mi appena finisco di facendo lo stand a bagno. Metto le batterie a caricare e poi le chiamo e lo proviamo. Andiamo su canale 1 e l'ICG, facciamo le prove e vediamo se ne dovessi sentire per forza. Sì, però dovessi togliere l'antenna con lo stilo, perché mi pare con quello stilo, boh, non hai smontato, no? Ma secondo me hai già messi, secondo me, sto mantenendo, perché dovrebbe essere un... penso che ci abbia almeno 2 salvate che ci ha fatto il sentire. Va bene, nell'ICG pompa molto di più, è una cosa differente. E vabbè, facciamo le prove, ragazzi, domani sera già ci sentiamo. Tanto io dovrei uscire verso le 4 e mezza, 5, poi. Vabbè, magari ci sentiamo più tardi. Il tempo di farmi un'oretta di sonno, poi già accendo là. Sì, ok, non c'è problema. Già facciamo le prove. Adesso vedere già sta facendo in attina, si chiama le tue tranquille. E non rimango senza acqua. Ho dovuto chiudere i rubinetti sotto l'avvello. Meno male ha mollato col piede, no? Avete già piccolato l'avvello. Meno male mi è successo di giorno. Se fosse stato di notte, domani mattina sarebbe tranquillo, se mi avrei trovato la casa tutta la gamba. Esatto, vabbè. Va bene, intorno è meglio, va bene così, prima fai quello che è l'urgenza, fai quello che devi fare, non preoccuparti, devo stare, non c'è nessun problema, dai. Ok, ciao Antonio, saluto in casa, ci vediamo domani, saluto in tutti gli affortuni e cura ti fa bene, dai, ciao. Sì, ciao, ci vediamo domani. Buon qui, buona cena con tutto e buona notte domani. Ciao, ascolta, come ti stai arrivando? Forse, sì? Motoscala, sì. Motoscala perfetta. Antonio, la sei puntata lì, quindi ti prende in pieno. E ok, già va bene. È un tenino che mi ha fatto Bacchisio. Bacchisio me l'ha fatto e c'ha anche il gemello, ce l'ha lui. Ok, dai, meglio così, dai. Ok, sentiamo, ciao di nuovo, ciao. Sì, ciao, ciao, rende bene comunque. Sì, con Bostano, quindi figurati. Rende parecchio quella. Vabbè, a domani, ciao, ciao, ciao.